in primo piano. Buongiorno agli ascoltatori di Radio 24. Caccia al nazista, così titola tutta pagina Libero, il quotidiano diretto da Vittorio Feltri. Non parla di Wiesenthal, noto cacciatore di nazisti responsabile di efferati crimini durante la Seconda Guerra Mondiale, ma bensì dell'ultima battuta del ministro Di Pietro. Ha detto Di Pietro ieri: quella di Berlusconi è una dittatura come quella di Hitler, da conto Libero. Accusa assurda, commenta, ma mica tanto, a tutti e due l'insulto conviene. Perché conviene, lo spiega nelle pagine interne sempre un ampio servizio di Libero. Scatta la caccia al nazista, titolato così, ci si guadagna in due. L'esistenza politica di Di Pietro dipende dal cavaliere. Senza di lui non ha ragion d'essere. È un nemico così, torna utile anche al premier. Divertente il commento di Gasparri di Alleanza Nazionale. Ho appena comprato uno scolapasta, lo manderò a Tonino perché lo usi come copricapo quando torna nella clinica dove risiede. Insomma, botte e risposta senza esclusione di colpi, anche se il giornale in prima pagina ricorre un po' all'ironia, facendo riferimento alla moderata analisi di Torino, di Tonino, così la chiama. Poi apre le virgolette e dice, riportando sempre le parole del ministro, forse con un po' di forzatura, ma mica tanto, l'Italia è come il Terzo Reich. Bene, Repubblica sempre sullo stesso argomento, botte e risposta, intercettazioni, la maggioranza si spacca, Di Pietro dice governo nazista, il Partito della Libertà risponde, è pazzo. Insomma, se ne vedono e se ne scrivono un po' di tutti i colori. A proposito della crisi economica, Repubblica dà conto della protesta degli operai Fiat, così il servizio è intitolato in prima pagina, scontri con la polizia, paura di licenziamenti, tensione a Pomigliano. Oggi il governo vara gli incentivi per auto ed elettrodomestici. Questo è l'occhiello. Il servizio comincia così. La paura dei licenziamenti ha fatto esplodere la protesta degli operai della Fiat di Pomigliano, che si sono scontrati con la polizia. Gli agenti sono intervenuti per impedire ai manifestanti, che chiedono garanzie per i 5.000 dipendenti dello stabilimento campano, e questi hanno tentato di raggiungere l'autostrada A1. Inchiesta a due pagine per il Riformista, sempre sullo stesso argomento. Fabbrica chiusa, 5.500 operai, ricorda il Riformista, a 700 euro al mese. Nello stabilimento di Pomigliano, prosegue, doveva essere la settimana di ripresa dalla cassa integrazione, ma mancano i materiali, non si può produrre. La Fiat non ha autorizzato l'assemblea, che si è svolta all'aperto. Poi i manifestanti si sono riversati sull'autostrada Roma-Napoli, seguiti in seguito gli scontri con la polizia, 6 i denunciati. Titolo forte anche per il Corriere, i sindacati agli agenti, metodi sbagliati. La crisi economica picchia duro, il Sole 24 Ore fa un titolo che fino a poco tempo fa sarebbe stato impensabile. Deutsche Bank in rosso, tagliato il dividendo. Per la prima volta dal 1956, ricorda il Sole 24 Ore, la banca chiude il bilancio in perdita, 3,9 miliardi, davvero una cifra rotonda. La cedola per gli azionisti ridotta a 0,5 euro, le quotazioni ieri in ribasso di oltre il 4%. Sulla crisi, a pagina 11 di Libero, la ricetta di Cipriani. Cipriani è un signore che è proprietario della catena degli Harris Bar. Un tempo era lo slogan della nuova sinistra, quello che adesso è la parola d'ordine di Cipriani. Lavorare meno per lavorare tutti. Lo spiega lui stesso dicendo che la crisi inonda la laguna, turisti pochi, alberghi non più così pieni, esclusivi ristoranti di lusso che rimpiangono i bei tempi d'oro. E anche all'Harris Bar la crisi si sente. Per questo la proposta per uscire dalla recessione è ridurre gli stipendi e insieme gli orari di lavoro ai dipendenti. L'ho già fatto in Inghilterra e anche negli Stati Uniti, spiega Arrigo Cipriani. È l'unica soluzione per mantenere intatto il numero dei posti di lavoro. Si tratta di un piccolo sacrificio che va fatto. Insomma, Cipriani come la nuova sinistra di un tempo. Sul problema dei bonus miliardari, il Corriere della Sera, pagina 29, dà conto di un servizio del Times, secondo il quale la polemica potrebbe travolgere i vertici della Royal Bank of Scotland, una delle banche maggiori del paese. Infatti, nonostante la crisi pesante, nonostante i pessimi risultati del gruppo bancario, potrebbe decidere di pagare bonus per milioni di sterline ai propri manager e si annuncia una rivolta a tutto campo. Sul problema degli stipendi dei banchieri è molto interessante un articolo del Riformista a pagina 9. Il titolo è anche un po' provocatorio: banchieri e stipendi. Scusate, cosa accadrebbe se Giulio, il riferimento è a Giulio Tremonti, ministro dell'economia, imitasse i tagli di Obama? Per la verità, Tremonti avrebbe una gran voglia di farlo. Anzi, come ricorda nell'articolo, c'è stato un momento in cui è stato perfino più duro di Barack Obama per quei banchieri che hanno messo a repentaglio le banche, ricorda il Riformista. Aveva ipotizzato, aperte virgolette, la galera, chiuse virgolette, la citazione è quella del ministro Tremonti. Per le banche che sarebbero andate a chiedere soldi allo Stato, come minimo si rendeva necessario un cambiamento dei vertici, ha detto Tremonti, ma per il momento almeno questo non è accaduto. Stipendi d'oro, una proposta di giustizia, la fa Giorgio Cremaschi della sinistra FIOM CGIL su Liberazione, il giornale di Rifondazione Comunista. Anche lui chiede per l'Italia una misura analoga a quella che ha deciso negli Stati Uniti Barack Obama. La prima pagina del Sole 24 ore, questa è la mattinata dei colpi di tosse, è diversa dalle altre. Le scadenze fiscali slittano di 2 mesi, modelli da rivedere. Il decreto legge mille proroghe del governo riscrive il calendario delle dichiarazioni fiscali, spiega il quotidiano della Confindustria. Dichiarazione dei redditi di persone e imprese slittano a fine settembre. Intanto il peso del fisco continua a salire, nonostante tutto quello che viene detto e annunciato. Scrive il Sole 24 Ore, quest'anno il gettito fiscale si ridurrà del 2,2%, ma a causa della riduzione della crescita, la pressione fiscale, cioè le tasse che pagano i cittadini, torneranno a crescere dal 43% del 2008 al 43,3%, come nel 2007, cioè al picco più alto, se si esclude l'anno dell'eurotassa. Interessante anche, sempre sul Sole 24 Ore, il servizio che in prima pagina dà conto di una scelta importante della Svezia. Antinuclearismo addio, titola l'articolo, la Svezia rispolvera l'atomo. Lo spiega Jacopo Giliberto, il quale dice e scrive: la Svezia, si sa, ha pochi rivali in fatto di ecologia. Una 30 d'anni dopo un referendum antinucleare, 12 anni dopo la moratoria che aveva deciso l'uscita dall'energia atomica, la verdissima Svezia ha deciso che i reattori sono più ecologici delle altre fonti di energia, ben inteso escluse le rinnovabili. Oggi la Svezia in 3 centrali ha 10 reattori che forniscono poco più di metà della corrente elettrica richiesta dai consumatori. Il resto viene soprattutto dalle centrali idroelettriche. Bene, il governo ha deciso di non abbandonare gli impianti e anzi di rinnovarli e al tempo stesso ha deciso che accoglierà le domande per la costruzione di nuove centrali. Vedremo come finirà, aggiungo io. A pagina 3 sempre del Sole 24 Ore, una intervista esclusiva, quella a Massimo Varazzani, l'amministratore delegato della Cassa Depositi e Prestiti. Aperte virgolette, così saremo il volano della ripresa, chiuse virgolette, spiega Varazzani. Varazzani è un personaggio importante, un manager importante, perché anche perché gode della totale fiducia del ministro Tremonti. Dice nell'intervista: con il risparmio fiscale la Cassa Depositi e Prestiti finanzierà grandi opere con logiche private e di mercato. Parola di Varazzani e di Tremonti. Trionfante la Padania, voce della Lega Nord. In prima pagina titola: sicurezza, vince la Lega, vince la legalità. Subito dopo, nell'interno, un altro servizio a tutta pagina: ronde, arriva il sì del Senato. Premiato, scrive il quotidiano della Lega, il senso civico di questi volontari. Inutile dire che la pensano diversamente Repubblica, Il Manifesto e così via. Titola Repubblica: via libera ai rambo delle ronde. Questa è la sintesi sui provvedimenti approvati ieri dal governo. Il bastone padano, sempre Repubblica, dice entra nel codice. Il Manifesto titola tutta pagina in prima: la selezione della razza. Un emendamento della Lega al disegno di legge sulla sicurezza abolisce di fatto il diritto all'assistenza sanitaria per gli immigrati senza permesso di soggiorno. I medici potranno denunciarli alla polizia. La CGIL invoca i sanitari all'obiezione di coscienza. Alza la voce anche il Partito Democratico: è persecuzione razzista. E anche nell'interno il Manifesto non fa sconti al governo e alla Lega Nord e titola: medici delatori per i clandestini. Insorgono anche associazioni e opposizione. La Chiesa dice: noi non denunceremo nessuno. Bene, prima della sosta di metà rassegna stampa, il titolo della Gazzetta dello Sport che farà fremere di entusiasmo i tifosi milanisti: mezzo Beckham c'è già, il Milan ha l'accordo con il giocatore e ora tratta col Galaxy. All'inglese concessi diritti d'immagine, per gli americani pronti 5 milioni. Insomma, la trattativa per Beckham è sul punto di concludersi, per i milanisti almeno, nel modo migliore. Oggi venerdì, come tutte le settimane, è anche la giornata di uscita dei principali settimanali Panorama e L'Espresso. L'Espresso è già stato ricordato in apertura di questa rassegna stampa dal collega che ha fatto l'introduzione al mio intervento, ed è una copertina dedicata agli onorevoli eurofannulloni, con Prodi che dice: così fanno un danno enorme al paese. Panorama invece dedica la prima pagina alla auto verde. Chi salverà l'auto? Scrive il settimanale della Mondadori. I nuovi modelli saranno così, e spiega quali saranno le novità che attendono l'industria automobilistica, sponsorizzati alla grande dal nuovo presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. Ma la cosa forse più inquietante e al tempo stesso interessante è un'inchiesta sul delitto di Garlasco, che spiega i segreti nel computer di Alberto Stasi, 25 anni, l'unico indagato per l'omicidio della fidanzata, Chiara Poggi. Ora è sotto inchiesta anche per pedopornografia, un'inchiesta nata dal ritrovamento sull'hard disk del suo computer, scrive Panorama, di immagini pedopornografiche. Oltre 7.000 filmati e fotografie catalogati in 22 cartelle secondo un ordine meticoloso. Ci sarebbero scene di sesso con bambini e adulti in cui i piccoli si vedono in faccia e scene di violenza su anziani, tutto rigorosamente diviso per tipologia di prestazioni, insomma roba da matti. Per quel che riguarda invece il caso Englaro, ricorda Repubblica: ore 6, via il sondino dell'alimentazione, noi Davide contro i Golia di Roma, l'ultimo sfogo del padre, l'occhiello di Repubblica, mia figlia vittima di violenza inaudita. L'ora X si avvicina per Englara. La Stampa dà conto dei tormenti di Silvio per il pressing di Oltretevere, cioè del Vaticano. Il cardinal Bertone, scrive La Stampa, telefona al Premier: dovete impedire un delitto contro l'umanità, dice il cardinale. Sempre sul caso Englaro, una testimonianza shock è quella che riporta a tutta pagina Il Giornale. Un lettore racconta la morte della moglie e dice, confessa, io ho staccato la spina in silenzio, sono uno dei 18.000 che ogni anno lo fanno. Chiede che Luana sia risparmiata una fine così straziante, il lettore del giornale. Se la scienza medica mi avesse dato la chance anche minima che Mirella avesse potuto rimanere con noi, non l'avrei fatto. Poi però si è pentito, almeno così pare. Il Riformista, su tutt'altro argomento, dà conto di quanto sta accadendo in Israele a pochi giorni dal voto, con il crollo della sinistra. Al contrario, salgono i conservatori del Likud. La bufera nella sanità è bene approfondita dalle cronache del Messaggero, il quotidiano romano. Il GIP, cioè il giudice impegnato nel processo Angelucci, dice, scrive anzi, nel provvedimento che ha dato il via all'arresto del figlio Angelucci, Giampaolo Angelucci, biglietti gratis e crociere ai politici. Il re delle cliniche Giampaolo e il padre Antonio sono accusati di avere truffato 170 milioni al sistema sanitario. Tra le merci di scambio, secondo i risultati delle indagini, anche viaggi in elicottero e vacanze alle Eolie. Il conto Roma-Milano è pareggiato dal Messaggero nel taglio di pagina. Istituto Galeazzi, uno degli ospedali più conosciuti a Milano, 30 indagati per truffa. Pessima giornata quella di ieri per la sanità milanese, scrive il Messaggero, forse con una punta di soddisfazione. Mentre al settimo piano del Palazzo di Giustizia l'ex primario della Humanitas, un altro ospedale glorioso di Milano, incassava una condanna a 4 anni e 10 mesi per lesioni gravi e omicidio preintenzionale, la Guardia di Finanza consegnava 30 avvisi di garanzia, uno anche al proprietario del gruppo ospedaliero San Donato. Proprio Giuseppe Rotelli, si chiama così, ha anche un altro punto di contatto con Angelucci, è uno dei maggiori azionisti del gruppo Rizzoli, Corriere della Sera. Insomma, grande passione per l'editoria da parte di chi gestisce la sanità privata. Anche Repubblica dà conto della raffica di avvisi al Galeazzi di Milano e anche Repubblica sottolinea che tra gli indagati c'è Rotelli, re della sanità privata lombarda, così lo definisce. Un editoriale che va senz'altro letto è quello che oggi pubblica il Corriere della Sera. È di Piero Ostellino, che in passato è stato direttore del quotidiano, è intitolato «Quell'errore dei magistrati, editori, giornalisti e inchieste», annuncia l'occhiello. Il giudice per le indagini preliminari che ha ordinato gli arresti domiciliari per Giampaolo Angelucci, scrive Ostellino, scrive, i vertici del gruppo dimostrano di essere consapevoli di poter superare qualunque ostacolo, potendo orientare l'informazione ai loro fini. Ostellino spiega, l'informazione in questione sono i quotidiani Libero e Riformista, entrambi di proprietà degli Angelucci. E poi via una serie di considerazioni. Se l'editore chiedesse di influenzare i giornali, sarebbe un pessimo editore, scrive Ostellino. Se i giornalisti si piegassero non farebbero bene il loro mestiere, sarebbero pessimi giornalisti. Poi aggiunge, conosco Antonio Polito, direttore del Riformista, e Vittorio Feltri, direttore di Libero, due giornalisti eccellenti con una lunga carriera alle spalle e sono due galantuomini, non ce li vedo a fare i lobbisti per conto di qualcosa che non siano le loro personali convinzioni. Ma, e qui arriva la parte più interessante dell'editoriale di Ostellino, ritengo che valga la pena riflettere su un punto che non è il merito della vicenda degli Angelucci, su cui Ostellino non si pronuncia, ma è il metodo seguito dal magistrato, scrive. Il giudice, affermando che gli Angelucci erano consapevoli di poter superare qualunque ostacolo, potendo orientare l'informazione ai loro fini, ipotizza che tale fosse la convinzione degli inquisiti, ma nulla dice sulla supposta complicità di Libero e del Riformista, finendo però col dire troppo su quei due giornali. Siamo alla teoria, in chiave giudiziaria, del primato dell'editore puro, senza altri interessi che quello di produrre il medium, il giornale, all'idea che tra i compiti della magistratura non ci sia solo quello di applicare la legge, ma anche di cambiare e migliorare il paese. E questo, secondo Ostellino, proprio non va bene. Sempre il Corriere della Sera, a pagina 21, pubblica poi SMS e intercettazioni sul caso Angelucci. Bene, la rassegna stampa di oggi chiude qui, sono le 7:55, l'appuntamento è sempre per domani.